L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati per questa puntata in cui parleremo di impegno per la sostenibilità di due grandi aziende in campi completamente diversi. L'una alimentare, diciamo così, ad ampio spettro, l'altra, di cui parleremo subito, di rifiuti. Iniziamo da Unilever che, dopo aver annunciato solo pochi mesi fa di essere diventata un'azienda a rifiuti zero a livello europeo, ha comunicato nei giorni scorsi di aver esteso questo primato ai 600 siti di 70 paesi in cui è presente. Parliamo di fabbriche, depositi, uffici, aree per la logistica che non porteranno più i loro rifiuti in discarica. Ci racconta di più Angelo Trocchia, presidente di Unilever Italia, che torna a essere nostro ospite in questa puntata. Buon pomeriggio. Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Allora, ci fa molto piacere che lei sia di nuovo nostro ospite, perché abbiamo un traguardo importante da sottolineare, raggiunto da Unilever, e un traguardo che tra l'altro l'Italia ha raggiunto un pochino prima degli altri. Parliamo dei rifiuti zero. Sicuramente tutto questo obiettivo fa parte di un obiettivo più ampio, che è tutto il tema della sostenibilità, che vede Unilever impegnata in maniera forte dal 2010 su tutto il tema della sostenibilità. Nell'ambito di questo percorso, di questa visione, di questo progetto a 10 anni del tema della sostenibilità, sicuramente l'aver raggiunto questo target, anche in anticipo rispetto a quella realtà che ci avevamo dato della zero rifiuti a livello europeo, è sicuramente un tassello importante di un percorso di Unilever. Però, come diceva giustamente lei, mi piace anche sottolineare il ruolo dell'Italia, no? Spesso l'Italia, come dire, spesso ci piaggiamo un po' addosso o arriviamo sempre dopo. Quindi il target che Unilever su più di 600 siti ha raggiunto a livello mondiale, appunto, di zero rifiuti in discarica, l'Italia l'aveva raggiunto già nel 2013. Quindi noi abbiamo quattro fabbriche in Italia, quattro stabilimenti produttivi in Italia, tutti e quattro stabilimenti produttivi più la sede di Roma, già nel 2013 hanno raggiunto questo importante obiettivo. Quindi siamo arrivati un attimo prima, a dimostrazione che poi quando ci si mette a lavorare, diciamo, noi italiani non siamo poi secondi a nessuno. Sì, è dimostrazione anche del fatto che se il contorno, diciamo, magari non è all'altezza, in ogni caso si può raggiungere questo obiettivo. Cioè, uno ha in testa di voler ridurre e annientare i propri rifiuti, lo può fare anche se magari il panorama nazionale non sembra portarti nella stessa direzione. E l'approccio è quello classico, visto: reduce, reuse, recover, recycle, quindi le 4 R, direi, no? Sono state applicate. Le 4 R però approcciate, qui secondo me il tema importante, che è un po' il tema che vale, ripeto, per tutto il tema della sostenibilità, è approcciare questo tema con tanta volontà, ma anche tanta razionalità e tanto processo. Cioè, questi progetti non li si ottiene se, come dire, se ne parla solo, no? Noi ci siamo organizzati appunto con il modello delle 4 R, siamo andati veramente a guardare tutte le nostre materie prime, tutti i nostri stabilimenti, e quindi lavorare su tutte quelle opzioni di riduzione del waste. Abbiamo poi lavorato sulla tipologia del packaging e sul come possiamo trattare gli scarti, e quindi abbiamo lavorato sulla cosiddetta il tema del riuso. Abbiamo poi lavorato anche su quello che gli inglesi chiamano il repair e il recycle. Quindi è veramente un approccio strutturato, quindi presa la vision, preso un grosso commitment e una grossa volontà, venendo a quello che diceva lei. Qui noi ci crediamo e ci stiamo lavorando indipendentemente da tutti, ma ci stiamo lavorando con tanta energia, ma anche con tanto processo e con tanta razionalità. E il fatto di aver strutturato questo processo, ripeto, che abbiamo cominciato nel 2010, ci sta dando risultati. Io credo che se si approcciano le cose con tanta volontà, con chiarezza di visione e con metodo, possiamo fare delle grandi cose, indipendentemente, mi passi il termine, dai diversi contesti esterni. Certo. Tra l'altro, il vostro impegno si riflette a catena su chi è a monte e a valle rispetto ai vostri stabilimenti, quindi direi che, a maggior ragione, l'avevamo già detto l'altra volta, è fondamentale, no? Perché voi richiederete a tutti di essere in linea. Esatto, ma infatti è esattamente questo, cioè noi guardiamo il tema della sostenibilità e quindi anche il tema che stiamo trattando adesso con tutte le persone, tutti gli operatori che operano con noi, quindi laddove parliamo di materie prime è chiaro che noi andiamo a lavorare con quei fornitori che saranno sostenibili, con quei fornitori che rispetteranno i criteri consoni al piano della sostenibilità e quindi chiaramente c'è una ricaduta sulla parte a monte, ma c'è anche sulla parte a valle. Parte a valle intendo i trasporti, intendo la logistica, cioè quindi tutti coloro che vogliono far parte del contesto in qualche modo di Unilever devono adeguarsi a questi standard e devono operare in un certo modo, ma è una dimensione che tendo anche a stressare è che c'è convenienza, cioè in Italia, giusto per darle qualche numero, dal 2010 al 2013, grazie all'impegno di cui abbiamo parlato prima, abbiamo avuto una riduzione del consumo di energia del 20%. In Italia, sempre facendo il confronto 2013-2010, abbiamo ridotto le tonnellate di CO2 emesse del 30% e abbiamo ridotto il consumo dell'acqua nei nostri siti produttivi del 35%. Quindi ci sono delle ricadute economiche importanti e quindi se noi possiamo anche in qualche maniera insegnare ai nostri fornitori questo approccio, anche per loro ci sono dei semi, quindi anche per loro ci sono delle ricadute economiche importanti e positive per i loro bilanci. Senta, ho visto però dai dati che se questo lavoro sui fornitori e chi, insomma, appunto chi è a monte e a valle di voi, quindi anche la logistica, distribuzione eccetera eccetera, sicuramente è già avviato, c'è molto da lavorare anche sul consumatore, perché invece lì le cose purtroppo non dipendono direttamente da voi ovviamente, però ci sono dei problemi. Noi abbiamo fatto un'analisi che ci dice qual è, diciamo, guardando il ciclo di vita del prodotto, quali sono le aree della catena del valore che impattano di più. Chiaramente lei ha un 30% che riguarda tutta la parte materie prime, produzione e trasporti, e chiaramente c'è un 70% che è legato al consumo. E quella è la vera sfida, quella è la sfida, mi passa il termine, che abbiamo davanti a noi, cioè come lavorando con il consumatore riusciamo a cambiare quello che chiamiamo i consumer habits, le abitudini di consumo del consumatore. E questa è la vera sfida importante, dove ovviamente, contrariamente alla parte prima, dove abbiamo, secondo me siamo andati molto veloci, l'abbiamo guidata noi, è chiaro che qui noi dobbiamo riusciremo in questo esercizio laddove riusciamo a coinvolgere il consumatore, nel senso che il consumatore deve cambiare le modalità in cui consuma i nostri prodotti. Questo è il motivo, per esempio, che con Maintenance abbiamo fatto delle campagne della riduzione dell'acqua. No, non c'è bisogno di tenere il rubinetto aperto quando ci si lava i denti, sembra una stupidaggine, però se lo moltiplica vede che poi c'è un impatto sul consumo dell'acqua enorme. Quindi la sfida nostra è lavorare con il consumatore, lavorare con le persone e cercare di insegnare o diciamo di lavorare perché alcuni stili di vita si adattino, o comunque un consumatore che è un po' più attento verso delle tematiche tipo quelle. Certo, tipo che almeno rifletta magari su quanto dentifricio usa o quanta acqua usa e quindi certo. Poi magari la volta successiva dica però effettivamente sto sprecando. Lei sugli imballi, no? C'è un'area enorme, noi abbiamo lanciato l'anno scorso tutta una linea delle quelle che noi chiamiamo delle ricaricabili, no? Se un consumatore diventa più attento al tema delle ricaricabili avremo una riduzione del packaging che gira per il mondo impressionante, e lì vediamo che il consumatore, e anche qui il consumatore italiano è un consumatore che poi dimostra un'attenzione, no? Cioè le nostre ricaricabili stanno andando benissimo, segno che il consumatore ha capito quella che era la finalità del progetto e la segue. Io sono sempre molto più positivo verso il consumatore, verso le persone, di quanto si possa pensare, cioè penso che se noi dobbiamo spiegare, cioè dobbiamo far capire le motivazioni vere, laddove siamo in grado, siamo bravi a farle capire, il consumatore poi reagisce, quindi io sono fondamentalmente un positivo verso il consumatore. Quindi lei dice più una questione di formazione, di informazione anche magari. Informazione di formazione, certo, però credo che noi abbiamo una responsabilità di spiegare e di rendere queste discussioni un po' più tradotte in un linguaggio che il consumatore possa percepire in maniera semplice. Senta, in conclusione, una curiosità che mi è venuta, diciamo, guardando appunto il lavoro grande che ha fatto Unilever, è se qualcuno un pochino più piccolo di Unilever se lo può permettere. È chiaro che il piccolo, secondo me, almeno il piccolo produttore, se deve nascere già con certe formulazioni, diciamo, di attenzione, salvaguardia, sostenibilità, eccetera, eccetera. Chi è in mezzo, magari, può fare questa transizione, secondo lei, tutto sommato, in maniera indolore? Guarda, io penso di sì. È chiaro che la scala conta, no? È chiaro che, voglio dire, quando sei Unilever e lavori con delle scale così grandi come le nostre, le cose sono un attimino più semplici. Però io credo onestamente che un produttore piccolo e medio, proprio perché anche nel piccolo c'è un ritorno economico, lo possa fare, c'è una maggiore attenzione nel disegno del packaging, anche un piccolo può averla. Magari, ecco, la parte di impatto sul consumatore è un po' più complicata, però sicuramente la parte di gestione dei siti produttivi, di come disegnare i prodotti, di una certa relazione con la parte a monte, io credo che un piccolo produttore la possa, è una strada che possa seguire, ma secondo me dovrebbe seguirla perché c'è anche un ritorno economico, c'è un'attenzione, spesso è più un fatto culturale, cioè di attenzione ad esempio all'acqua o l'attenzione ai waste, l'attenzione all'energia, è spesso più un fatto di attenzione anche culturale o di come ci si pone, piuttosto che di una complessità veramente, veramente intrinseca. Quindi io credo che anche i piccoli produttori è una strada che possono seguire. Grazie davvero. Angelo Trocchia, presidente di Unilever Italia, io la ringrazio per essere stato con noi, buon lavoro e complimenti. Grazie a voi e buona giornata a tutti, grazie. Ci fermiamo per un minuto e torniamo questa volta per parlare di italiani e alimentazione. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24. La passione si sente anche in viaggio. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digital radio. L'altro pianeta. Eccoci di nuovo insieme, ancora un buon pomeriggio da Laura Bettini. Vi ricordo che nella prima parte abbiamo parlato dell'obiettivo rifiuti zero di Unilever a livello mondiale e della buona performance di Unilever Italia, che è arrivata prima all'obiettivo rispetto agli altri 600 siti distribuiti su 70 paesi in cui lavora Unilever. Adesso parliamo di Eating Planet, cibo e sostenibilità, costruire il nostro futuro. Questo è il sottotitolo del rapporto 2016, edito da Edizioni Ambiente e curato dalla fondazione BCFN, che sta per Barilla Center for Food and Nutrition. È il centro di studi nato con l'obiettivo di analizzare i grandi temi legati all'alimentazione e alla nutrizione nella sfera ampia di Barilla, come dice il nome stesso ovviamente. Abbiamo scelto in particolare oggi di parlare di Italia per darvi un assaggio di questo volume, che è amplissimo. Scorro l'indice giusto per darvi un'idea, qualche titolo: cibo e COP21, cibo al centro delle sfide globali, la circolazione delle merci, il paradosso alimentare, qui si parla di obesità e malnutrizione, l'instabilità del cibo e così via. Come dicevamo, però, abbiamo scelto di parlare in particolare di Italia. Il nostro ospite è Roberto Ciati, membro del consiglio di amministrazione della fondazione BCFN. E dal testo, Ciati, questa è la prima domanda, appare evidente che il modello della dieta mediterranea, nonostante le mode e il gran parlare che se ne fa, ormai zoppica vistosamente in Italia e probabilmente anche negli altri paesi del Mediterraneo, no? Sì, questo qui è ormai una tendenza che è consolidata purtroppo da diversi anni, perché esistono da questo punto di vista degli studi anche scientifici che lo vanno a indicare, sia da, e mi riferisco ad esempio allo studio Moli Sani, che è questo interessante gioco fatto proprio in una coorte del Molise, che però si prestava molto bene, no, in termini di valutazione di quello che era il comportamento degli italiani, e purtroppo la tendenza è a una progressiva, seppur lenta, ma progressiva allontanamento da quello che sono i canoni, mi faccia dire, del modello mediterraneo, noi tutti ben noto. Perché esiste sostituiti con canoni più nordamericani, temo, non giapponesi, ecco, che potrebbe no tutto... magari no esatto esattamente no non è certamente l'altro modello virtuoso insieme al modello mediterraneo, quindi quello giapponese, che va a ispirare queste modifiche. No, purtroppo è il fatto di spostarsi verso quello che è, mi faccia dire, è il modello occidentale che poi è vicino a un certo modo di comportamento nordamericano, quindi uno spostamento progressivo verso un consumo maggiore di carni, certamente pochi legumi, e quindi questo va a modificare quello che poi è anche un indice, perché esiste un indice di mediterraneità e questo indice sta scendendo, e quindi questo qui è un dato che ormai è consolidato da questo punto di vista. Quindi c'è una multifattorialità che, pur consapevoli di che cosa significa mangiare bene, e poi a volte andiamo invece dall'altra parte. Come del resto sappiamo benissimo che dobbiamo fare più attività fisica, che no? Dobbiamo. Vabbè, e anche questo... lì, e poi dopo nella realtà delle cose sfugge, ecco. E beh, se poi ci mettiamo che l'altro pilastro di un corretto stile di vita è l'attività fisica, beh, lì la situazione è altrettanto non positiva, perché a volte confondiamo l'attività fisica con le 2 o 3 volte di attività in palestra, che va bene. Il tema vero è che noi ci dobbiamo muovere in modo molto semplice tutti i giorni. Infatti non è un caso che le indicazioni anche degli esperti da questo punto di vista è la famosa passeggiata dei 30 minuti, è scendere alla fermata antecedente dell'autobus, è fare le scale e non l'ascensore, che non sono certamente comportamenti, come dire, diffusi. E questo purtroppo, e torno quindi al mondo Italia, è anche a livello purtroppo dei bambini, dell'infanzia. Ebbene, e chiudo qui, ebbene il fatto che quantomeno nel disegno della buona scuola si siano introdotti il tema dell'attività fisica. Poi magari, se intanto che c'erano, introducevano anche la corretta alimentazione, avrebbero chiuso il cerchio, però almeno prendiamo questa parte positiva. Sì, certo, avessero messo anche la ristrutturazione delle palestre delle nostre scuole, che anche lì lasciano piuttosto a desiderare, sicuramente. Ovviamente no, però spesso capita in queste classifiche, i paesi del Nord Europa, in particolare in questo caso Svezia e Danimarca, hanno un primato positivo perché fanno più attenzione in particolare all'attività fisica. Leggevo, 72% degli svedesi pratica attività fisica durante la settimana in modo regolare, e contro il 29% degli italiani. Sì. La fondazione, che ha gli occhi un po' dappertutto, ha svelato il perché, come gli svedesi o i danesi o altri paesi sono riusciti a fare questo lavaggio del cervello ai loro cittadini? È una bella domanda, perché anche qui, come sempre, la risposta va verso diversi fattori. Allora, uno certamente è un fatto, come dire, di cultura nordica dello stile di vita, che anche come modalità di lavoro, quindi di numero di ore di lavoro, che è diversa dalla nostra, e quindi hanno, come dire, anche una consapevolezza maggiore di qualità del tempo per come deve essere speso. Poi lei ha detto prima bene per il tema palestre, poi c'è un fatto, come dire, di messa a disposizione di servizi che sicuramente possano agevolare le persone e anche ad aver voglia di fare questo tipo di attività. E quindi questo è un po' un insieme di fattori e che porta poi i paesi nordici a questo quasi paradosso, che sono magari più attenti loro sull'attività fisica che non noi. Poi magari sull'attività alimentare anche loro oscillano, no? Perché soprattutto in certe situazioni nel recente passato avevamo visto anche come dire, delle tendenze estreme anche in Svezia, dove erano ritornati a dei consumi di burro eclatanti, tanto da far sì che poi il governo sia intervenuto in un modo molto diretto a spiegare ai propri cittadini che una corretta alimentazione non è certamente in quel senso. Sempre in questo contesto dell'alimentazione mi ha colpito anche un contributo di Gabriele Riccardi in cui parla di ambiente obesogeno e ne leggo giusto qualche riga per gli ascoltatori e dice tra l'altro: tutto ruota intorno al cibo, la televisione, i giornali, i social media sono pieni di iniziative gastronomiche, di dritte sui ristoranti, di pubblicità, di alimenti e poi ancora ci si trova al bar per un caffè, all'aperitivo, cioè un tempo si andava al bar per il caffè, oggi ci si vede a cena o per l'aperitivo davanti a un pasto vero e proprio ipercalorico. C'è anche questa componente effettivamente. Ah, certamente, infatti era in parte quello che avevamo toccato prima. Sì. È chiaro che ognuno di noi, allora, da una parte abbiamo una marea di informazioni, o mi faccia dire presunte tali, per cui uno già, una persona normale, poter discernere ciò che è corretto da ciò che, mi faccia dire, è la moda del momento, non è propriamente facile da questo punto di vista. Questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto legato a questo è che probabilmente chi ha come dire, il ruolo, la responsabilità, e quindi mi rivolgo al mondo scientifico e anche alle istituzioni pubbliche, si sforza certamente di spiegare ciò che è corretto e ciò che è meno corretto, però probabilmente non lo fa con linguaggio e canali adeguati al giorno d'oggi, per cui sembra quasi una partita persa prima ancora di scendere in campo. Terzo aspetto è l'offerta dei prodotti a cui noi siamo continuamente esposti, e soprattutto nelle grandi città, dove è molto facile alla fine del lavoro, prima di tornare a casa, magari fermarsi con gli amici, con i colleghi, si piglia magari l'aperitivo ed è sempre un'aggiunta, e quindi l'aggiungere è chiaro che andiamo a portare molte più calorie. Se poi questa aggiunta è fatta anche attraverso prodotti che certamente sono sfiziosi ma che hanno un contenuto calorico significativo, beh, è chiaro che poi il conto è presto fatto. Ci vorrebbe l'introduzione chiara di semplici concetti già fino dalle scuole elementari ai bambini di come è bello e buono mangiare correttamente, perché forse è anche questo un mito da sfatare, no? Perché sembra che un'alimentazione bilanciata sia triste, privativa. Non è assolutamente vero che il modello mediterraneo, proprio perché ha tutti i cibi al proprio interno, lo dimostra. E forse questo, proprio come lei diceva correttamente, nella spettacolarizzazione, no, del cibo, del ruolo degli chef oggi, quello potrebbe essere anche un bel veicolo in cui far vedere come piatti a base di carboidrati, verdure e legumi si possono fare dei piatti straordinari, estremamente semplici, molto buoni e per di più magari non così costosi come la gente magari può pensare. Costosi in termini economici, ma anche di grassi magari, no? Quindi perché sì. Cioè, bisognerebbe cambiare un po' le proporzioni, visto che quella è la passione. Se la passione è la cucina, cambiamo però gli ingredienti di questa cucina. Esatto. Io la ringrazio molto per averci aiutato ad entrarci in questo rapporto 2016 Eating Planet, cibo e sostenibilità, costruire il nostro futuro, lo ricordo per gli ascoltatori. Buon lavoro e a risentirci alla prossima edizione. Grazie mille, grazie a lei. Grazie per averci seguito, ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora.